Le guide. Bella domanda, rispose Grisenda con un sorriso che illuminava i suoi occhi di un bel nocciola chiaro. La casa pensò bene di intervenire con il suo canto forte e ritmato. La domanda è pertinente. Chi è curioso è intelligente. Se davvero vuoi imparare, un buon trucco è domandare. Non pensare di sbagliare, e non farti mai frenare. Nel giardino la luce cambiò. Le stelle, che si potevano ammirare attraverso i rami folti delle querce, presero a brillare molto intensamente, come a voler sottolineare quel ritornello con la loro approvazione. La casa sorrise alle stelle e continuò il suo canto. Tante cose sentirai, cose nuove ascolterai. E se la risposta è vera, te lo dice l'altalena. Se la pancia ti fa male, la risposta no non vale. La risposta è dentro te, se la cerchi, lì già c'è. Pim, che pensava di essersi ora abituato a quelle strane cantilene, ancora una volta era rimasto a bocca aperta cercando di dare un senso alle parole che aveva appena ascoltato. Grisenda lo guardò sorridendo e disse, «La tua domanda è giusta e naturale. Ti rispondo molto volentieri. Chiudi gli occhi, per favore, e ascolta». Pim chiuse gli occhi e ascoltò il canto di Grisenda, che aveva una voce sottile, allegra, melodiosa, molto diversa da quella della casa. Ad accompagnarla era un sottofondo di violini. Siamo guide. Che vuol dire? Te lo canto, stai a sentire. Noi, le guide, siamo l'uno, tu, il guidato, sempre l'uno. Mentre ascoltava affascinato quella melodia, Pim capì che gli stava succedendo qualcosa di molto strano. Con gli occhi chiusi, all'interno della sua mente vide se stesso in un altro universo, dove stelle e pianeti non erano oggetti lontani, ma parte della sua stessa realtà. Lui, stelle e pianeti nuotavano nella stessa energia. L'energia era l'uno e loro erano l'uno. La sua vibrazione toccava la vibrazione delle stelle e dei pianeti. E la vibrazione delle stelle e dei pianeti toccava la sua vibrazione. E nell'immensità dell'uno un'infinità di altre energie partecipava a quella danza. Pim si sentì parte di quell'energia. Capì che le stelle e i pianeti erano la sua dimora e ricordò che quando era in cielo il suo passatempo preferito era leggere il libro delle stelle. Grisenda continuò il suo bel canto. Siamo sempre insieme a te, non ci vedi? C'è un perché. Pim aprì gli occhi, si fece coraggio, e chiese, ho ascoltato la tua canzone, e anche quella della casa, che ha detto che la risposta alla mia domanda su cosa vuol dire essere guide è dentro me. Va bene, ci credo. Ma aiutatemi a tirarla fuori la risposta, perché io ancora non ci riesco. Ditemi qualcosa di più per piacere. Siamo guide. Che vuol dire? La risposta vuoi capire? Prova a usare l'intuizione, e ascolta la canzone. Sei protetto, sei guidato, certamente molto amato. Non ci vedi? Guarda bene. Solo gli occhi? Non conviene. Pim chiuse di nuovo gli occhi e vide di nuovo se stesso nell'universo, dove stelle e pianeti non erano oggetti lontani, ma parte della sua stessa realtà. Si immerse nella sensazione bellissima di leggere il libro delle stelle. Vide che nelle loro pagine c'erano buchi neri. E che poteva infilarcisi dentro per passare da un universo all'altro. Che c'erano infiniti universi. E che ogni universo gli apparteneva ed era la sua dimora. Grisenda riprese il suo canto. La magia io posso usare, mille trucchi so inventare. Certamente so volare, e mi piace anche giocare. Nella notte so scrutare, la tua mano indirizzare. Sono proprio l'ideale, quando la paura assale. Sempre con gli occhi chiusi, Pim scoprì che poteva essere totalmente presente sia nella casa ad ascoltare la dolce melodia di Grisenda, sia all'interno della sua mente, dove vedeva se stesso volare tra gli infiniti universi. Capì che poteva entrare nei buchi neri del libro delle stelle e decidere in quale universo e in che tempo fermarsi. Intuì che la sua scelta dipendeva dalla sua voglia di giocare, di conoscere, di espandersi. E che tutto questo gli piaceva immensamente. Aprì gli occhi. Era ora attento, e molto curioso. Sentiva che la melodia stava sottilmente lavorando dentro di lui. Si fece di nuovo coraggio e chiese a Grisenda, canta ancora un po' per favore. Sono il falco, vista acuta, ti proteggo a tua insaputa. Se mi incontri un bel mattino, so cambiare il tuo cammino. Sono il ritmo e la canzone, che scatena un'emozione. San la frase che tu leggi, in quel libro che sorreggi. Io ti lascio anche sbagliare. Perché serve ad imparare. Non avere mai paura, la tua strada è ben sicura. Sei protetto, sei guidato, sei infinitamente amato. Mi stai dicendo tante cose, e ti ringrazio, disse Pim. Ma il mio dubbio rimane. Se siete le mie guide, se siete sempre con me, perché quando non sono qui ma sulla terra, non vi vedo? Grisenda gli rispose cantando. Vuoi saper la verità? Te la canto, è la realtà. Se ci parli e se tu chiedi, noi veniamo e tu ci vedi. Rispettiamo il tuo volere, compariamo a tuo piacere. Il tuo arbitrio rispettiamo, se domandi, rispondiamo. Se ci ignori, noi svaniamo, senza fede, noi aspettiamo. Ma la fede non vuol dire, farsi un sonno e non capire. Puoi usare la tua fede, e vedere che succede. Con la fede puoi provare, e da solo giudicare. Vedendo l'espressione sbalordita di Pim, Ximenes decise che era arrivato anche per lui il momento di intervenire. Si tirò su con grande agilità e si mise in piedi sul sedile dell'altalena che cominciò a oscillare a un ritmo molto veloce e sempre più in alto. Non ancora soddisfatto della sua esibizione, tolse le mani dalle funi dell'altalena, tirò fuori dalla tasca della sua giacca elegante un'armonica a bocca e cominciò a suonare. Come potesse restare in piedi senza cadere era un mistero, ma ci riusciva, e bene. Non solo, era anche molto bravo a suonare l'armonica e la melodia vibrava nella notte luminosa. La casa intuì che era il momento perfetto per una tisana calda e profumata, al gusto di pesca e con un tocco di menta. Le altalene capirono il messaggio e fermarono il loro dondolare. Le poltrone magiche erano ora in giardino, e su un tavolino basso coperto da una tovaglia a fiori erano pronte grandi tazze di tisana dal profumo invitante. Tutti si sedettero sorridendo e iniziarono a bere lentamente quella bevanda profumata. Un'energia di pace era discesa sul gruppo. La casa iniziò a cantare accompagnata da musica molto serena. Pim capì che non gli veniva richiesto nulla di difficile, che non doveva capire, che non era sotto esame, che poteva semplicemente ascoltare e godersi quel momento. Che bel gioco ricordare. La risposta vuoi trovare? Se la cerchi è nel tuo cuore, solo lì non c'è l'errore. Cinque sensi tu puoi usare, ma ben oltre tu puoi andare. Seguì un lungo momento di silenzio. Grisenda si rivolse a Pim, non più cantando ma a parole questa volta, e disse, ci conosciamo dall'infinità dei tempi. Ti ascoltiamo, ti amiamo incondizionatamente, ti guidiamo, rispettiamo il tuo andare, interveniamo anche a tua insaputa in momenti particolarmente difficili del tuo cammino terreno. Prestiamo continua attenzione. Ma allora, perché non ricordo? Chiese Pim. Fu di nuovo la casa ad intervenire, con un canto sereno, suadente. Alza gli occhi, guarda il cielo, capirai in un baleno. Cielo e terra sono uno, non c'è proprio dubbio alcuno. Apri il velo dell'illusione, la realtà è oltre il nebbione. Seguì ancora un lungo silenzio, in modo che musica e parole avessero il tempo di fare il loro lavoro, non solo nella mente ma anche nel cuore di chi le aveva appena ascoltate. Illusione? Nebbione? Chiese Pim. Fu Ximenes, con la sua voce profonda che invitava all'ascolto, a rispondere. Con la nascita scende l'oblio. Quando arriviamo sulla terra, lentamente ma inesorabilmente, dimentichiamo chi siamo veramente. Scende l'oblio? Chiese Pim. Sì. Vuol dire che dimentichiamo. Dimentichiamo la nostra vera natura. L'oblio è come una nebbia, anzi un nebbione come ha ben detto la casa. Un nebbione che non ci consente di vedere la vera realtà. Pim sentiva che le strane parole che aveva appena ascoltato risuonavano bene dentro di lui. Capisco solo in parte, sussurrò. Ditemi ancora di voi, per favore. Noi conosciamo molto bene la terra, disse Ximenes, nelle nostre vite abbiamo fatto esperienza di tanto, e partecipato alla nostra crescita e alla crescita dell'uno, o degli universi se preferisci usare questo nome, così come stai facendo tu ora. Non c'è limite al giocare, puoi tornare e ritornare. Una vita, una sola? Suona strana la parola. Per richiamare ancora di più l'attenzione sul contenuto del messaggio, la casa aveva deciso di intervenire in modo molto rumoroso. La sua melodia risuonò accompagnata da una batteria in cui piatti, tamburi e tamburelli vibravano molto intensamente. Alla quercia quella musica piacque così tanto che le venne voglia di ballare e i suoi rami e le sue foglie presero a muoversi al ritmo della batteria. La scena era così divertente che provocò la risata argentina di Alia e Kim, e quel suono portò allegria tutto intorno. Ximenes riprese a parlare, essere guide vuol dire essere servizio. Noi siamo al servizio. Senza giudizio, senza critica, senza aspettative, senza richieste, senza insegnamenti, senza dottrina, senza superiorità. Ma perché esiste il nebbione dell'oblio? Perché dimentichiamo? Chiese Pim sempre più curioso. La Terra, rispose sorridendo Ximenes, il pianeta dove vivi ora, è un parco giochi meraviglioso, dove possiamo metterci alla prova, imparare, e crescere. Senza l'oblio non ci sarebbe nulla da scegliere perché vedremmo tutto come realmente è, uno. E invece col nebbione dell'oblio non vediamo che tutti siamo l'uno, che tutto è uno, e grazie al due possiamo scegliere in ogni momento. Tu hai scelto di volare e di venirci a trovare. Ottima scelta. Aiutatemi a capire meglio, disse Pim. Te l'avevo già cantata, ma tu forse l'hai scordata. La ricanto lentamente, e tu ascolta attentamente. Mozzarella o cioccolata? Minestrone o un'insalata? Colorato o sbiadito? Un po' sciapo o ben condito? Tutto in terra è dualità, che vuol dire possibilità. Senza il due scelta non c'è, e la scelta tocca a te. Solo tu scegliere puoi, su decidi, cosa vuoi? Se tu scegli, puoi imparare. E se sbagli, puoi cambiare. Se non scegli e se non provi, non ti muovi e mai ti trovi. Tu sei qui per imparare, per giocare, e per volare. Tutto è a tua disposizione, per creare evoluzione. Questo è il senso della vita. E tu giochi la partita. La casa ha proprio ragione, disse Grisenda. L'universo non è statico, ma in continua evoluzione. E Gaia, la terra dove ora vivi, è solo una piccolissima parte di ciò che ci viene offerto nell'immensità. So che ti sembra tutto molto strano, intervenne Ximenes, non ti preoccupare. Quello che non capisci ora ti diventerà chiaro un domani, e non ha nessuna importanza se è un domani vicino o lontano. Rilassati e ascolta. Tutto va molto bene. Tutto è in perfetto ordine. Altri voli tu puoi fare. Imparare è un po' giocare. Il ricordo è dentro te. Non c'è fretta, credi a me. Siamo d'accordo con la casa, disse Kim. Per risvegliare il ricordo di ciò che sai, perché è già dentro di te, la cosa migliore è non avere fretta. Mi piace quello che dite, mi piace molto. Sento però che di nuovo il tempo di questo volo sta per finire. Avverto una sensazione di pesantezza. I suoni si stanno affievolendo. E anche la chiarezza e la bellezza di tutto ciò che percepisco sta piano piano svanendo. È assolutamente normale, gli disse Alia con voce tranquilla. Non ti preoccupare, tornerai. Sei un gran bravo pilota. Ricorda, non c'è fretta. Noi ti aspettiamo. E sono sicura che la casa si inventerà qualcosa di speciale per darti il benvenuto. Ciao allora, disse Pim. Ciao, risposero in coro Alia, Kim, Ximenes, Grisenda e la casa. Le loro voci erano come un sussurro, e Pim intuì che stava passando dal sogno al sonno. Ma era certo che sarebbe tornato, e quindi si addormentò felice.